Sentite la sigla un po' più lunga e per i tempi tecnici di collegamento per la diretta telefonica ritroviamo César Brie all'interno di In Scena del Breakfast Club, che sarà in scena al Teatro Comunale Laura Betti a Casalecchio di Reno per parlarci di Re Lear è morto a Mosca. Sabato 2 marzo a Laura Betti, la prima regionale del nuovo spettacolo di César Brie, che è qui con noi. Buongiorno, bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie. Beh, mi sento un po' in colpa, un po' no, un po' per l'orario e perché sei in viaggio, però mi hai detto che sei mattiniero, quindi insomma... Sì, sì, guarda, sono partito prima per riuscire a fare la telefonata con te. Ecco, e sono molto onorato. Intanto entriamo in scena, allora. Sarà per domani alle ore 21, Re Lear è morto a Mosca. È un omaggio agli attori del Gozet, il Teatro Ebraico Nazionale di Mosca, chiuso dalle autorità sovietiche nel 1948. Ci puoi dire, dopo questa presentazione molto sintetica, appunto, intanto il perché di questa repressione e i contenuti, entrando sul palcoscenico del Teatro Comunale Laura Betti? A te la parola. Allora, questa è la storia di due grandissimi registi attori, Solomon Mikhail e Benjamin Zuskin, uccisi da Stalin, uno nel 48, l'altro messo in carcere, rapito mentre era a fare una cura del sonno in una clinica, torturato 4 anni, poi fucilato nel 52, alcuni mesi prima della morte di Stalin. Quando poi Stalin morì, loro furono tutti e due, diciamo, dichiarati innocenti, non furono riabilitati, insomma, furono rovinati le loro famiglie. La figlia di Zuskin andò deportata bambina insieme alla madre, che era un'attrice. E noi conosciamo questa storia grazie, da un lato, a Antonio Attisani. Attisani è quello che ha fatto la ricerca come professore universitario. Per chi non lo conosce, Attisani è uno studioso, un filosofo, e per me è il mio maestro. E lui ha fatto questa ricerca, lui è una delle sue curiosità è stato il teatro ebraico nel mondo, e quindi lui ha pubblicato un libro, poi ha fatto pubblicare un libro sul Re Lear che questi due attori hanno fatto, un grandioso Re Lear che fece rimanere senza fiato a Edward Gordon Craig. Per chi non lo sa, Gordon Craig è il grande rinnovatore, il grande rivoluzionario della scena contemporanea. E quello, diciamo, per dirlo in breve, che il primo che capì che il teatro non era mettere dei mobili e fingere di avere un salotto, ma che si aveva a che fare con uno spazio scenico che doveva essere in qualche modo dipinto, costruito. Quindi è l'antenato di tutta la scenografia contemporanea. E quindi c'è il filo rosso del grande capolavoro shakespeariano. Sì, esatto. Loro fecero questo Re Lear, Gordon Craig andò a vederlo nel 35, chiese un biglietto in ultima fila perché voleva sgattaiolare via, era un Re Lear in Yiddish fatto dai russi, pensavo sarà una cosa noiosissima, scappo. E tornò 7 volte a vederlo e scrisse loro che era che loro incarnavano il teatro che lui sognava fare. Sì. Questi due grandissimi attori si dovevano districare, tra uno dei fondatori, non dei fondatori, ma uno delle anime iniziali di questo teatro fu Marc Chagall. Sì. Proprio l'anno prima di partire dalla Russia, lui se ne va nel 23. Nel 22 lui collabora con il Gozet facendo le scenografie, facendo anche un quadro che era esposto nel foyer, e uno dei due attori, Mikoes, studia i quadri di Chagall, cerca di capire qual è l'idea di teatro di Chagall e crea un modo di recitare che lui sostiene rispecchia le idee di Chagall. Sono diventati molto amici. Mi cose quello che sarà ucciso con un finto incidente di macchina nel 48. Tra l'altro, sì, ricordiamo che sia Chagall che il grandissimo Malevich sono stati anche autori di scenografie e di costumi teatrali. Per sì, anche se non scorreva buon sangue tra tutti e due. No, beh, uno era troppo avanti probabilmente, no? Lenin diceva l'avanguardia deve essere 3 passi avanti, non 10 passi. Malevich evidentemente era anche 20 passi avanti come avanguardia. Sì. Chagall invece lo conosciamo bene, sappiamo il suo aspetto romantico, la bellezza, l'intensità. Però io penso che in realtà era più all'avanguardia Chagall, ma questa è una discussione che avremo in privato. Certo, certo. Ma sì, perché Chagall non era assimilabile. Infatti la scuola d'arte di Chagall a Vitebsk rimane in mano a Malevich. Sì. Sì, che finì per fare quadri, diciamo, un po' di realismo socialista e firmava però col quadrato nero. Il quadrato nero, la vittoria sul sole, un capolavoro assoluto, sono passi di storia dell'arte in seguito del teatro che per me sono dei fondamentali. Quindi, bando ai nostri pareri personali sui quali potremmo parlare per ore. Per quanto riguarda lo spettacolo invece che sarà domani, si alza al sipario alle ore 21, io concluderei questa conversazione, ma perché c'è stato questo accanimento sull'aspetto yiddish, sul teatro? Stalin era un antisemita. Sì, sì. E poi loro facevano un teatro così particolare in cui tutto quello che non poteva essere detto lo dicevano con i corpi. Ah. Quindi sai che era popolarissimo, ci andavano i russi che non capivano l'yiddish, loro facevano una specie di sinossi dell'argomento. Ed era veramente popolare. Infatti una delle frasi che a un certo punto dice uno degli attori, Chagall aveva ragione, per uccidere, per censurare il nostro teatro devono uccidere gli attori. Ora, forse il pubblico può pensare che questo è solo una tragedia, invece è uno spettacolo divertentissimo, perché seguendo la tradizione ebraica noi cerchiamo di prendere in giro tutti, noi stessi in primis, per cui lo spettacolo che racconta un fatto tragico e un fatto d'arte è in realtà una grandissima festa, una festa di musica, di danze, di senso dell'umorismo e anche amara, però consiglio a tutti di venirlo a vedere. Noi siamo felicissima, abbiamo fatto adesso 6 giorni a Milano, è stato un tripudio col pubblico che c'era, era meraviglioso. La cultura yiddish tra l'altro è carica di questa ironia, sì, di questa forza, anche esatto. La storicità nella letteratura, ha presentato un libro di uno dei fratelli Singer mercoledì scorso che è stato riproposto da Adelphi, insomma, per cui decisamente nel suo linguaggio che si esprime nell'arte, in questo caso a teatro, e la possibilità di trovarlo protagonista alle ore 21 nella giornata di domani al Teatro Comunale Laura Betti. Relier è morto a Mosca e sarà per la giornata di domani. Ringraziando per questa anticipazione, ti auguro anche buon viaggio, visto che sei in questo momento fermo. Cesar Bria, che è tornato in frequenza sui 103.1 a In Scena, e come ho detto ti auguro buona giornata. Grazie ancora, anche a te, a tutti voi. Grazie. Grazie. Ciao. Vittoria sul sole, quadrato nero su sfondo bianco, commovente, lavoro di Malevich, veramente difficile da comprendere per distruggere tutto ciò che luccica questo sole mentitore che si rivela alla fine dello spettacolo un quadrato nero, invece che essere splendido e brillante, perché dietro a tutto ciò che brilla molte volte, insomma, una traduzione molto più profonda del famoso non è mica tutt'oro quello che luccica. Grandissimo Malevich, per me è un genio. E con questo non sottovaluto mica Chagall, ci mancherebbe, anzi, altra mia grande passione. Abbiamo un altro appuntamento in scena, sarà tra pochissimo, quindi non cambiate frequenza, un po' di musica, pubblicità, poi si torna in diretta con la rubrica del venerdì a colazione con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko.